Audio, audio. E quindi oggi fa del gallo, ciampa ciampa, ciampa gappa. E non vuoi andare, vero? Ma ne vuoi andare? Non lo capisci, anche io sono a casa. Mi sono sdraiato un po' e te a accendere la radio perché c'è, stavo ascoltando. E tu? Ma vieni giù. Cappa. Eia, non vedrà. Ho detto, non hai sentito nessuno, cioè non è entrato nessuno. E oggi ti di uscire magari, non da Gianni sta lavorando, adesso sta riposando sicuramente. Non io, io di giorno. Ma tu stampa al barba. E buh. E sono 7:09 mi. Però l'ultima gente a entrare a fredda però bacco, è un so, lì da te. Ma qui in montagna c'è sempre freddo. C'è sempre freschetto, non si riesce a capire se la temperatura si vuole salire o meno, si cadeva solo a Rusolimi, al sole si sta bene, è vero, no? Non è stabile, no? Lui dice che cambia la temperatura fine settimana addirittura, poi rigaggerà due, va domenica, mi piega un po'. Per immaginare il fine settimana, qui domenica sto lavorando, quindi figurati se piove, faccio un doppio di cose di qua, capito? Perché aumentano le portate, aumenta tutto, e c'è un doppio di cose da fare, ma vabbè, speriamo bene. C'è un flutter acceso, tutti spagnoli, c'è il Sudafrica in 40 metri, Sudafrica in 40. 7.148, mamma, non è proprio niente già meglio, infatti già sono rimasto in Chivia, non ti preoccupa, già a me, cioè non mi scompongo, no, sentivo, anche bene, benino, non avevo le direttive, è così, però, c'è un po' di gente chiamando. Come che era ammaiato nel suo lettino, mi fa del guigiolino, mi sa che mese, si manca un quarto, eppure a quell'ora si sveglia perché lui è un orologio, alle 16 e un quarto deve mangiare, quindi come sta a girare le balle. Anche io se sto giocando quando devi mettere lì la pettorina, cioè, non puoi fare la mia madre, sono stangoleggia, sta gente direi. Però sta sempre giocando anche quello, ma loro sanno che quando vedo che prendo l'Italia subito è pronto la Ianna, perché sa che deve uscire, capito? Fino a voi mi sta tagliando tutto, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene. Gappa gappa, non tocca se non c'è, non tocca se... Questa cosa ricco per il Filippo mio, Filippo di mia figlia, e lo porta poco in questo periodo, prima lo portava di più, adesso lo porta poco perché c'ha orari balordi, rientra sempre tardi, capito? La mattina esce presto, e Una piccola nota, cioè presidente della FIA all'Olimpia, IS0UAI, Antonio, il mio vicino di Napoli, la sua telegrafia 18070, telegrafia LPL. Sì, bene, sono contento che ci siano anche i vecchi. Fabrizio, scatola che c'è dove c'è anche il lavoro. Ma di fronte la persona che ha più rispetto alla fine del fronte. Non ti scelto, mi di radio. No, mi senti, guarda, uno, due, tre, prova. Adesso sì, non ti sentivo. Sì, perché stavo parlando a voce bassa. In effetti, siccome c'è la colonnina qua, non mi sentivo forte manco io. Adesso sì, adesso sì. Cos'hai detto, che vai via? A fine del Ponte Nuovo, visto dove c'è quel bar, che prima era il proprietario di quel bar che c'era a Monte Roseno, che adesso è a bar sui punti, in Spagna, una cosa del genere. Di fronte c'è un'assicurazione che dove c'è anche mia moglie assicurata lì. E mi ha detto che fa buoni frizzi, adesso vediamo, perché se questo qua non si fa rintracciare, io è che ce l'ho vicino a casa, la comunità è quella, capito? E dove c'è la pulizia lì, però non vuoi mai, cioè, se non vuoi per qualsiasi cosa non lo preoccupare questo qua, quando ne ha Puglia basta, quando ne Puglia non ci va, no, la riuscita. No, se che cosa devo fare un... Non c'è niente, no, assolutamente. Assolutamente, non saccio, non saccio. C'è la giornata mattina, altre tre macchine incendiate di notte. Una incendiata mi viene a casa di Franco, per il fondo lì, quella via che c'è tutta la tonero, dice Maria Guerra. Gli altri non so, li hanno incendiati. E ne avevano incendiato un'altra lì da poco, una foto, diciamo vero. È cosa di settimo secondo me, questa gente che non sa cosa fare fa queste cose qua, o è dispettita perché non ha lavoro e magari nei confronti degli altri si dispettisce, non lo so se ci sia un motivo, tu si ci gioca, tu si ci gioca, non pagata. No, era quella che ho visto, era una macchina vecchia, era una Lancia di Piscino Bianco. Mi tratta di proprio a fianco alla strada da Franco, capito? Sì. E poi quella nuova l'ho vista dove c'è Roberto Meccanico, esce una città nuova. Era targata FA, mi sembra, FA. Macchina da neanche un anno, nuova, bruciata. Lì proprio di fronte all'officina di Roberto. Che racca tu le donne. Allora, bisogna riuscire. Infatti sono andato a portare a Roberto la macchina, la 600, per farle, per mettere i freni nuovi, e anche mi ha ancora lasciato la macchina. E dice che c'era più di 15 giorni, che ancora stavano facendo la perizia, non potevano portarla lì. E si dice, però è roba inquinante. Fumero che fa, mamma mia, si è fatto tutto lo barato dietro. Tu vicino a casa una è esplosa, quando hanno incendiato quelle 5 macchine dove c'era anche quella del cognato di Massimiliano. E praticamente una è esplosa, è tutto. Sì, si incendiano qualche macchina che c'è l'impianto a gas e non lo sanno. Sono cacchi da cagare, pericoloso, buffolenti sì. Boom! Una bomba. E poi mi hanno detto che c'è questo bombista attorno, che fa più tumori per le gomme e devo scendere giù, l'ho fatto fare per il tubo, mi prende 100 euro, poi il tubo per il papà, piazzate e equilibrate. Già, posso levi la voce, non ti intendo, ciao Marco, buonasera. Eia, buonasera a tutti. Sì, Gianni, faccio fatica a ascoltarlo, devo attaccare l'orecchio alla radio. Ma chi viene? Aspetta. Voce. Aspetta un attimino che ho ricevuto un messaggio, devo fare una chiamata. Riprendi già. C'è anche Natalino, riprendi. Eia, Marco, basta, guarda, 1, 2, 3, prova. Io non mi sento basta qua, per l'ascolta sembra buona la radio. Oh, adesso sì, poco fa no. Questo microfono si tiene attaccato alla bocca, non si tiene, aspetta. Se no non rende, capito? Buttalo via! Ciao già, sì, in effetti era basso prima, ma adesso già va bene. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao Natalino, sì. Avanti ancora Gianni. Ciao Giù, spesso al telefono. Dopo tanto, che fine avevi fatto? Io, nessuna fine, guarda, sempre qua. Ogni tanto la passeggiatina, la sera, così quattro passi, tanto per sgranchire le gambe. E dopodiché, no, avevo problema del raucete, ne avevo e dunque non avevo voglia di parlare perché se lo sarebbe stato peggio, ho capito, ma ho già. Mi sembra che un'altra volta te l'aveva fatto, ovvero lo stesso problema, si è dedicato alle corde vocali, alla gola, là. E ogni tanto, almeno una volta l'anno mi pesca e dunque, però se insisto a parlare poi succede che i tempi di ripresa si allungano, per cui ho preferito non parlare, capito? Tutto lì, bisogna limitare alle volte anche certi discorsi intesi come sforzo della gola, dai. Beh, se la sente c'è poco da fare. C'è Natalino, c'è Marco, Rata Pignala, vai per chi vuoi, Giulio. Beh, ok, avanti Marco, sì, a Claudio è al telefono, avanti Marco. Ehi, ciao Giulio. Mi hai sentito? Io ancora, vabbè, sono allo stato brado, mi devo vestire perché stare tutto il giorno in pigiama non va bene, metti che venga qualcuno, debba uscire a fare qualche commissione. Infatti dopo mi attrincio, devo anche cambiare la sabbia ai gatti. E piccole cose, dai. Ben sentito. Ci rilanciamo. Natalino, riprendi? Per salutare Giulio. Natalino, riprendi, allora riprendo io. Rilancio ancora a lui, vediamo un po' se l'ho preceduto troppo in fretta. Avanti, Natalizio, sì? Ah, ok, va bene, attendi pure allora, Natalino. Non ci sono problemi. Claudio, quando smette di telefonare già si ripresenta da solo, non c'è bisogno di chiamarlo. Avanti, Gianni. Io mi stavo quasi per andare a vestire, e facevo andare a comprare un po' di frutta e stavo arrivati in tempo. Mangi un po' cagana, mi ho fatto la dormita, oggi l'ho comprato una pietra, presente ce l'hai, usciata. Ho dormito come se fosse di notte. Sono rientrato, io continuo a sentirlo basso a Gianni. Ciao Giulio, ciao. Che è abbastanza di nuovo la modulazione, Gianni. Sì, Gianni, la stessa cosa è successa a me, io difficilmente la sera riposo, cioè dormo nella maniera più assoluta, ma ieri mi sono sdraiato così e stavo guardando la televisione, una trasmissione sportiva che è praticamente canale 63, e beh, devo dirti che mi sono abbioccato e mi sono svegliato abbastanza tardi, diciamo, dai. Tanto è vero, poi sono entrato in frequenza, ma ero appena svegliato, mi ero, per cui sono stato ancora con la voce addormentata. Va bene, riprendi Claudio, allora. Gappa, c'è un messaggio. L'oceano è diventato nonno. Bene, meta. Meglio così, mi ha detto. Il video ancora non ne vuoi sapere, ma vabbè. Già facevo la barba bianca, quindi esistiamo ancora. Avanti, Marco. Se la guiva. Non è detto, oramai non è quello il problema, perché figlia di Andrea sposata, non è sposata, conviva già tanti anni, ci hanno fatto un bambino, hanno fatto bene, quindi oramai il matrimonio di Gianni è una cosa superficiale, non ha cucche, secondo me, prima di sposarsi del tutto, è meglio che conviva per un po' di anni, almeno si accorge se funziona la convivenza, dalla convivenza ti accorgi se si è fatto uno per l'altro, se la guida di cui io leggi non va bene, allora soprattutto se sono bambini diventa un po' più critica la cosa, capito? Invece ognuno per la sua strada, ciao, arrivederci, buon viaggio, alle 30, ma ne alle 31. Marco, riprendi. Leia, d'altronde lei è molto impegnata al lavoro, se avesse un bambino comprometterebbe molto l'area lavorativa, capito? Comunque è bello anche fare, avere figli da giovane, perché ci vai anche più d'accordo, come dire, e ai figli fa piacere avere anche genitori giovani, si sentono più vicini ai loro genitori quando sono giovani genitori. E vabbè, dai, già arriveranno, già ti fanno contento, dai, così diventerai nonno Claudio. Cosa passava? Ma che ove la mamma? Sempre a casa mia moglie, quindi non lavora più tutto il giorno. Almeno abbiamo un po' di compagnia. Poi c'è Filippo, che poi è una sorellina, un fratellino. E così è. Va bene, avanti Gianni, messo a posto il microfono. Oh, non c'ha nulla il microfono, ma la batteria che sta scaricando, io mi sento abbastanza tranquillo. Qua io c'ho il parlascolta e sto scendo bene, non capisco come mai, estremamente non esca. No, sai cos'è già? Che magari mentre parli ti distrai un po', o lo allontani un po' il microfono oppure abbassi il tono di voce. È come che io magari passando cose comincio a parlare piano così, insomma non mi abbasso un po' la voce, no? Sai, come ti distrai? Non ha niente la radio, va benissimo la radio. Ok. Vabbè che Claudio già c'hai i nonni, volendo Ilaria può continuare a lavorare, ci sono i nonni disponibili, poi mettili un po' in braccio, li fai toccare le radio, amico, così te le sciavi invece. Ilaria era un po' appassionata quando era piccola, Ilaria sempre bugiava, cicù. Beh, io ho 20, sono sposato a 25, 27 anni quando è nata mia figlia, quindi perciò non sono neanche 30. Io ne ho 57, perciò è chiaro che ti dico i figli, se non te ne vai a va, però figlia di Andrea è pare che abbia qualche anno in più di Ilaria, forse 32-33, non lo so, d'accordo. Vabbè, avanti Giulio, quindi tutto a posto? Sì, tutto a posto qua, sì. Nessun problema qui. Sì, aspetta, voglio fare una chiamata, vediamo un po' se c'è Marino. Marino, ci sei, rispondi? Poco fa c'era. Ah, vabbè, allora sto arrivato in ritardo, vabbè. Ci sei, avremo modo di sentirci più in là. Vabbè, stazionale, non è tutto a posto, tutto procede bene, stazione a posto, salute, grazie a Dio, a posto, per cui piccola bolletta che sta a voce poco fa, l'ho terminato, domani lo riprendo, un'altra mano e via, e si va avanti così. Sì Gianni, la radio va bene, è vero che va bene, però ogni tanto si abbassa, ecco qual è il problema, tutto lì. Adesso in quell'ultimo passaggio che ha fatto è fortissimo, andava benissimo, per cui parla ascolta, sta funzionando, ma in altri passaggi ci si abbassa, ma molto, però non poco, molto, che devo addirittura aumentare il volume per sentirsi, per cui vabbè, comunque già lo metterei a posto. Avanti Gianni. Se lo rifà le cambiamo la batteria, e sicuramente è quella, perché è tanto tempo che c'è la batteria, magari quella lì che sta dando i problemi. Dai, adesso mi sono alzato in piedi, prima ero sdraiato. Come state ascoltando in questo momento? Io ti sento bene adesso problemi non ce ne sono, adesso va benissimo, per me va bene. Avanti qua. Sì, ma infatti non c'è niente nel microfono, che intanto si cala la scala di modulazione, capito? No, non riuscivo a capire se è la batteria, se sei tu che ti allontani, non so già, non c'è niente assolutamente. Vediamo se è rientrato l'antarino. L'antarino, a Bisese. Ti prendi a salutare Amato Giulio. Ciao Marco Natali, e beh, tutto bene? Ti stavo aspettando per venire a prenderti con la piastrina che ti ho detto, invece non ti sei visto, sei proprio smemorato, mi sa, in questi giorni, o non avevi tempo? No, non sono stato, ho detto, sono stato. salutare io, non è un problema, sempre quello, però voglio dire, no, pensavo guardi che te ne fossi dimenticato, capito? Per cui te l'ho voluto ricordare solo per quello. Va bene, scusami, riprende, fai girare tu, vai, solo per quello, ti penalizzo. Speriamo che adesso parla bene il microfono. Sto cercando di togliere l'ugola fuori. Marco, se hai intenzione di uscire? E chi lo sa, potrei anche uscire. Adesso mi devo vestire, tra l'altro devo cambiare la sabbia ai gatti, se no sto 8 giorni in pigiama e non mi piace. Perché? Dimmi. Ma così, perché volevo andare a fare questa verifica, qualche assicurazione, a vedere se trovo qualche assicurazione che mi fa di meno. Anche perché questa assicurazione, ripeto, il giorno che c'è, il giorno che non c'è, non si sa mai da andare a farlo. A me mi piace l'assicurazione che mi dia una certa, diciamo, che si facciano trovare, che possa contare. Io non ho abbassato, sì. No, uno che c'è oggi, domani non c'è, queste cose. No, se magari andavamo insieme, così ci facevamo anche un giro. Se vuoi già, se devi comprare anche quelle scarpe, io allora mi preparo, ma vengo io lì. Vieni tu. E voi? No, le scarpe, Marco, me le ho comprate nella galleria del nostro supermercato, c'è un negozio di articoli sportivi, me le ho comprate oggi. Sono passato, le ho guardate, ho detto quelle lì, numero, sono passate, le ho attese e me le ha date, capito? Quando se ne stavo andando, me le ha date. E via, e me l'ho comprato così al volo, capito? Ho preso quelle fila che sono morbide. Ah, morbide. Vabbè, fatemi preparare, dai, poi decidiamo. Ci sentiamo dopo, dai, a dopo, ciao, riprendi Claudio. Ciao, va bene, avanti Giulio. Ok Marco, d'accordo. Truccati bene, fatti un bel macchiaccio, così almeno... diciamo che farai il colpo, dai. Ui. Vediamo buon Natalino cosa ci racconta. Beh Natalì, mandati via già gli ospiti. O sei ancora impegnato? No, se ne sono andati. Ma mica mia moglie, la devo affondare. Ah, ok, ho capito. Oh, va bene, dai. Comunque riesco a sentirti bene, dai Natalino, non ci sono problemi. Andà bene, buona per la truppa. E allora qua, scommetto che domenica la puoi, guarda che domenica piove, non andare a travagliare. No, devo andare per forza. Devo andare per forza, è già due domeniche, la camicia è rientrata, è già travagliato due domeniche. Perché ne manca uno e quindi come hanno fatto a me, allora lo sto sostituendo io, e ci avevo due domeniche da fare. L'ho fatto domenica scorsa e questa. Però sono libero domani, venerdì e sabato, capite? Sono libero venerdì e sabato e ti dico quello che vuoi, che è un po' cagana, ma poca, però vabbè, pazienza. Tanto lavoro domenica mattina sia a mezzogiorno, dalle 7 a mezzogiorno. Non è che devo fare niente, se piove, meglio usci più poco di volte giù. Quello già è vero, eh? Beh, se non è possibile, quante piove, il problema incomincia a essere un pochino di contorno, certo. No, sto adesso perché lo so che tu c'hai a sangue, di solito la domenica sei sempre a tabacco, per cui è per quello che ti ho voluto, è una provocazione. Mettiamola su questo tono, Ocla. Riprendi, fai girare tu, vai. Sì, ma infatti siccome tu lo sai, quindi è la seconda domenica che lavoro, appena sono rientrato di mercoledì e subito ho lavorato domenica e ho anche la giunta. Vabbè, pazienza, poi vediamo Pasqua e Pasquetta cosa succede, perché c'è anche quello da dire, che veniamo bene che a Pasqua e Pasquetta o si pone in maradia o si chiude un cavallo blocco, un anzano, e quindi c'è Dio Claudio che copre, ma non è un problema, io vado volentieri a lavorare, sta migliorando il tempo e quindi ci mettiamo in linea sotto pressa. Avanti, doppio route, Gianni. E dai, sto preparandomi, Claudio, dai, ci sentiamo dopo magari dalla macchina. Va bene, avanti Nazzarino. Eia, giù, Marino è entrato poco fa, salutarci, ha detto che entra dopo, infatti l'ho ripreso, tra quanto ti ha messo l'antenna sei sempre sul canale 20 e qua non ci viene mai, ha detto già passa anche qua a salutarci ogni tanto. Ok, sì no, ci siamo sentiti, ci siamo, per cui appunto anzi pensavo che di sentirlo in frequenza stasera, poi ci ho pensato ma sarà l'ascolto, ma se ha detto che rientra, già rientrerà. Anche lui ha i suoi impegni come tutti del resto, per cui diamo tempo al tempo per la radio, va bene così. Ok, vabbè, avanti Natalia, aiuto, raccontaci qualcosa. Natalia, sempre lo distrae questa moglie, sempre lo distrae. Natalino è ancora lui esplosivo, ho capito, lui è esplosivo ancora, caspitina, è dunque impegnato in altre cose, claro. Tu è sempre venuto e ha fatto un bel lavoro, ci ha messo le messoline, le cose, le radio, un organo di nuovo, i baracchini, già va bene, piano piano, adesso mi domani mi libero domani mattina a fare un po' di commissioni, ma mi libero presto, non la faccio sopra loro a vedere dove si può montare questa antenna, così la prende, e il buon lui ci ha famuro in TV pure, e ha ritirato questa antenna, lo manco tranquillo. Sarebbe una cosa ben fatta, una cosa anzi che si dovrebbe fare, certo, così almeno ci sistema una volta per sempre, per cui va benissimo così. Ah, vai là a dargli una mano, diciamo, là, a collaborare con lui. No, vado a fare un sopralluogo, capito? Perché sono nati un sacco di esperti e non hanno bucato i piedi, allora vado io a fare un sopralluogo domani mattina per vedere come si può montare questa antenna. Ah, ok, ho capito, sì. Vediamo, forse c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, chi era? Chi era su canale 10, avanti? Boh, forse qualcuno del passaggio, infatti tu l'hai sovrastato, perché è abbasso anche di segnale, per cui, però l'ho sentito chiaramente. Va bene, è meglio così, beh, sicuramente una soluzione ci sarà, dunque se c'è già si trova, per cui fai bene, è meglio così, dai, sono contento per Natalino, così almeno ci sediamo una volta per tutte. Vediamo se riprende, Natalì, matagumata sese. Si vede che è impegnato, dai, avrà di nuovo ospiti, qua. Essendo lì, lui magari ha fatto la nuova moglie o ha entrato in guerra anche lui, capito, non è separato, lui c'è tutto il giorno, quindi se viene qualcuno deve smettere di parlare, già si intende di voi. Sì, vado io, abbiamo deciso sabato, ma non sapevo che domani, non era recupero, quindi domani mattina alla 9 devo andare all'ACI, poi appena mi libero lo chiamo, scendo e faccio questo sopralluogo, capito? Sarebbe sempre ido di fare delle cose, infatti a me dai, io voglio mettergli la questa antenna almeno tranquillo, intanto adesso lui mi dice che se la compra, ma intanto vediamo cosa c'è da fare, che materiale ci vuole, se si vogliono staffe, non staffe, quali ci vogliono, insomma voglio andare a rendermi conto, dai, se usi difficili di montare questa antenna o se ci sono solo parole non fatti. Probabilmente sono proprio quelle, sono parole, niente affatto, però una soluzione ci sarà, perché in ogni casa del mondo ci sono i tetti, per cui la soluzione si trova, perché si trova, altro che se si trova. Ci vuole magari un pochino più di impegno e un pochino più di costanza per potersi interessare meglio a fare il lavoro. Va bene, va, sono contento per lui, così almeno dai una mano e ci sistema anche lui, tranquillamente. Così almeno la smette una volta per sempre, questa quattro dell'antennino, eccetera. Si mette un'antenna, poi se non sarà una grandissima antenna non ha nessuna importanza. L'interessante è che funzioni bene, tipo quella di Marco ad esempio, è una bella antenna lo stesso, che lo sento fortissimo. Tu pensa che quando attacca quel dinaretto che ha, supera i 920 Marco da qui. Diversamente senza il vignaretto mi arriva intorno ai 9.15, 9.16, 9.17 modulati, dai. Dunque un bel segnale ugualmente, no? Guarda, Valerio ha attaccato Santiago Nova, Valerio. È una buona antenna, ma lui c'ha, è perché l'antenna è bassa. Se no quella zona lì, via le Trieste, via le Trento, quelle zone lì sono buone, capito? Sono molto buone. Qua arriva 9.35, non pensare che arriva 9.30 attaccato, 9.35 attaccato, un segnale uno dei più alti che c'ho, quindi va bene, sì, ma sicuramente prenderà quella, mi stava dicendo, o quella lì perché mi serve roba leggera, ma però non possiamo montare, se no andiamo in campagna nella smonta e barbia a secco, ma lì manca non se ne può piazzare, è troppo pesante, non si può salire sul tetto, Giulio. Devo attaccargliela in facciata, capito? Dove c'è attaccata l'antenna della macchina, se una macchina è di fuori in facciata con un tubo, non ce l'ha più dentro casa, l'ho fatta togliere e messa fuori. E arriva sino a te, prima no, l'ha sentito Sandro a Corottoro, se l'ha sentito Franco a Sorso, capito? Arriva bene da Massimiliano, insomma il circondario di Sesse lo fa quasi tutto. Ok, sì, beh certo, sì, in effetti, no, io lo sento bene, la verità, io lo sento bene, ma arriva a Santiago 7, modulate, ma arriva a Santiago 9, per cui non è un problema, io non lo sento bene, la radio è perfetta, io lo sento benissimo, vabbè che lui ha una buona timbrica, eccetera, per cui non ha mai avuto problemi del genere per quanto riguarda la radio, va bene, sono contento per lui, Natalino già se lo merita perché è un vecchissimo CB, ci conosciamo la vita, ci conosciamo, perciò è meglio che rimanga insieme a noi così in ruota, ogni tanto ci scambiamo quattro chiacchiere. Va bene, sono contento, veramente. Avanti qua. Allora, va bene, tanto sempre a casa anche lui, mezzo pensionato, ma e quindi non ha cominciato accesi di fatti. Non arriva benino qua, supera 9 addirittura, bella radio, c'è un bel baracchino, capito? E vuole andare a vedere qual è il problema del montaggio di questa antenna. Voglio rendere conto perché voglio capire, io non ho montato due giudici antenne, non aveva Pasqua, l'avevo montata all'interno, prima di montarla sul tetto, perché il tetto non era mio, quindi avevo chiesto, poi c'era un problema che nessuno aveva la chiave, e allora era lì si acciavi rombi, capito? C'era una porta di quella chiave tipo gromo, e quindi ho chiamato Fabio, insomma non sono a posto, ero riuscito a montare la mandola lì. Perciò prima l'avevo montata all'interno del terrazzino del giardino interno, perché c'era il terrazzino solo dall'altra parte, l'autostrada non ne avevo, l'ho montata lì, ho fatto una staffa sulla ringhiera, tassellata al muro lo stesso, e avevo messo un'antenna lì, e poi l'ho portata lì, l'ho portata sul tetto, quindi vediamo qual è tutto questo problema. Secondo me tu hai ragione, Giulio, tu ti sei agganciato. La più sicura è. vabbè, ma io non lo so come, però ho visto la stradina dove abita e per cui magari ci vuole un trabattello o qualcosa per poter arrivare a una certa altezza, per poter installare delle gaffe e più in alto possibile, per poi mettere appunto un tubo decente che possa appunto sopportare l'antenna, eccetera. Beh certo, sì, no, è fattibile, si tratta solamente di mettersi a fare le cose, ecco, sì, organizzarsi. in quel caso lì c'è Marino che l'aveva proposto, mi sembra già da tempo che lui era disposto a prestargli un ponteggio per poter arrivare alla stessa altezza. Tanto lì è nella stradina, io penso che si possa anche salvare senza bisogno di chiedere nemmeno il permesso. Tanto cosa è buono, un paio di uli, buoni di capi e ciccia. E ve ne scendete, non ci sono problemi poi, alcuno, capito qua? Sì. Devo vedere giù, perché io non so manco lo che avete. Devo vedere qual è il problema. Se capito di mettere una staffa a uva, ma c'è il tubo a parete, non so, devo vedere. Un telescopico là sotto, montare l'antenna e tirare su direttamente gli elementi. Voglio vedere, perché voglio rendere conto qual è la difficoltà di questo montaggio, capito? Perché insomma non è che anche me ecco non ha leva, ha sollevato il mondo e non è il tipo di mobilia che sta mantenendo al costo di attaccare la relazione, ma io la devo tirare su l'antenna. Certo, una soluzione già si trova, già lo credo. Sì, no, io già lo so dove abita. Non è che sono andato a una casa sua, ma so benissimo dove abita, per cui proprio di fronte al tabacchino c'è quella stradina dentro lì, e per cui non c'è da sbagliare. Intanto le altre stradine, una più su e una più giù, quella che c'è proprio di fronte al tabacchino, perciò quando si va e vai a colpo sicuro lo trovi subito, senza perdere troppo tempo. No, non ci sono problemi qua. Sì, intanto scendo col motorino, ma se fa questa bella giornata posso camminare pure. Sì. E il tabacchino che c'è lì, Corso Vico, stai dicendo, no? Attraversa così. Corso Trinità. Dopo la chiesa, più giù c'è il tabacchino sulla sinistra scendendo, no? E lui è di fronte. C'è un vicolo chiuso che è appunto di fronte proprio al tabacchino, per cui non. Sì, conviene andare col motorino, perché tanto parcheggio lì non ne troverai mai. Sì che troverete difficoltà a parcheggiare, invece col motorino vai direttamente dentro il vicolo e non ci sono problemi. Lì c'era la come si chiama? C'è quello lì. A fianco a Pia Giacomo. Esatto. Oh Maria, oh, giù complici, quindi no, non c'è problema. Non c'è problema, però uno vi viene a Gassucci, chi mi pare, boh. Via Marino, oggi via Vito. La buonasera del gatto. Io stavo cercando, stavo parlando con lui di fare sempre la consulente per 7:30. Avanti, giù, la buonasera a tutti, dai. Ok, ciao Marì, 9:10. Va bene, dai, va benissimo, la radio già è forte, è un po' cupa, però già è forte. Sì, è così, infatti. E quello, guarda, quello che vendeva col cartuccio, eccetera, era un parente di un radioamatore che tu sai benissimo, adesso io nomi non le faccio, però era un parente stretto, non so se era cugino o cosa fosse, ma forse il cugino, che io ho conosciuto molto bene. Tra l'altro era anche un lucidatore di mobili allora, a quei tempi, e insomma ci siamo conosciuti e ci siamo frequentati per un certo periodo di tempo anche. Va bene, avanti Marì, dimmi. Sì, dimmi, buonasera, cambio, Grazie. Tutto a posto, guarda. Sì, sono molto in roba, lo sai, che fai, c'è sempre da fare. Mi stavo lavorando con i documenti e così via, tutto qua. No, per il fronte a Piazza Tabacchino, Claudio, sì. Cambio, attenzione, canale 10, cambio. Sì, Mario, ho capito. Datti una gaimata a Eugenio che stanno parlando con quell'antenna di plastica che c'hai. Sì, Mario, ho capito perfettamente adesso dov'è. Io ero convinto che era il corso Vico, invece è il corso Trinità. Sì, di fronte al tabacchino dove c'è il corso. Eccolo qua, mi squilla il telefono. Avanti, Giulio, fai entrare Eugenio. Sì, se ci offre caffè a tutti quanti, se però lui non c'entra qua. Ciao Eugenio, ben ascoltato, io sto scendo con tre matte, se mi ascolti va bene, se no, peggio mai te. Avanti, Eugenio. Buonasera a tutti, buonasera, anche la torta di anelli ti offro a te, giù, c'è problema, non c'è problema, la ditta si piega ma non si spezza, buonasera di nuovo. Ok, oggi, bene, bene, sì, sta arrivando molto bene, bella, bella radio, bella potente, Santiago è oltre 9, per cui va bene, va bene, va bene, ti mando Marino, è un nuovo acquisto, no, non come CB, perché come CB è vecchio come me, vecchio nel senso come anni di militanza cibistica, però adesso è risolto di nuovo, scusa Marino l'espressione, si è risolto di nuovo in frequenza, avanti Marino. Cosa Marin? Non campo e non furgone. Ah, ragazzi, sono col furgone. ok. Ma quindi ci arrivano 9.5, eh? 9.5, regolazione, ok, bellissimo, pulizia, avanti. Regolazione, microfono DM1000, con apparato 3009. Bene, bene, benissimo, ottima bella regolazione, avanti giù. E poi, Eugenio, avete preso allora quello che costava un centone del 3009, così è. L'avete preso allora? Sì, sì, ho fatto la farola, ho fatto. E ne ha altri a quel prezzo, se non è che li ha già venduti. Il negozio Radio Smitter di Spinozzi, Luigi Spinozzi, ecco qua, Luigi Spinozzi. Oh. Luigi, non mi sbaglio, Luigi. Ragazzi. Sì, avanti qua. No, mi ha chiamato Sandro Tigre. Mi ha aperto la casa, primo. Sicuramente stamattina loro non c'erano, né lui e nella sua signora, gli hanno portato via tutto, tutte le radio, qualsiasi cosa che hanno trovato. Quindi stiamo attenti, se c'è qualcuno che vi vende 440, Galaxy Saturn Echo, Excalibur, cosa, baracchini modificati, Colt, capito? Fatemelo sapere, perché intanto gireranno sicuramente questa roba, non vi fidate, perché è tutta roba di Sandro. Cazzo, questo mi dispiace, perché Sandro non si meritava una cosa del genere. Sti bastardi, ma sempre in agguato sono questi ladroni, non è possibile. Mi dispiace veramente. Eh beh, certo, da Sandro, quando uno entra lì, ce n'è cosa da portare via, già lo credo. Io ci sono stato da Sandro, per cui so benissimo quale valore ci poteva essere in quella casa. Speriamo che riescano a pescarli questi bastardi ladri. Ma comunque, cosa vuoi fare? È inutile stare a fare discussioni, perché intanto se non si trovano è come fare un buco nell'acqua. Mi dispiace veramente, porca miseria. Allora ti Mario. È un casotto, no, la nostra storia è qua, a casa mia, sarà due settimane fa. Due settimane fa mi ho preso la signora, è entrata a casa la signora, è una ragazza di persona. Mi hanno spaccato tutto, non ho fatto più danno, non hanno fatto via nulla perché non ce l'ho fatta. Hanno fatto un danno pazzesco, tutto mi hanno fasciato, e hanno anche sporcato, tutto qua. Sono poi dei vantaggi, sono finito a fare. Bene, un avanti Giulio. Sì, alcuni giorni fa sono entrati anche da me, però non hanno fatto in tempo, perché hanno trovato il mio cagnolino. Quindi non si sono neanche avvicinati a casa, diciamo. Sono solo entrati nel cortile e hanno trovato il mio doghino. Oggi io c'ho il cane sciolto in campagna, c'ho un corso, c'ho 15 mesi. Poi quello che è successo, cioè, non mi ha risolto nulla. La sensazione la voglio chiudere. Se non mi ha risolto nulla, quando mi si prende, No, tutto il giorno girando. Infatti la campagna è stata citata, i primi mesi non mi ha risolto niente. Zero. Sì, avanti Claudio. Sì, davanti c'è cosa ti dico, un poco male viene in treno qui. Sia Paragliano, che Giulio conosce, e sia per il cane che è sempre dietro la porta. Già pronto. No, mi piace perché aveva preso anche altra roba nuova da poco e niente. Sono entrati dalla vetrata giù, hanno fatto un taglio nel vetro della vetrata. Sai che c'è quella vetrata, no? Però ci sono le porte dello scorrevole. Era mezzo aperto lo scorrevole. C'è una di sole bella, la moglie lavora, uscita alle 2, lui è sempre fuori, entra la sera e niente, ha trovato la sorpresa, hanno rovesciato tutto quello che hanno trovato, armadi, controlli eccetera, e poi sono partiti in sala radio, si stanno portando un duzzo, vinta dei microfoni, tutto, non l'hanno ragato un baracchino per modulare Giulio, nulla. E nessuno ha visto nulla, cioè la posizione dove abita Sandro non è una posizione dimenticata al resto del mondo, lì ci passa il mondo e nessuno ha visto niente. Niente, oggi nessuno ha visto niente. niente, due suoi vicini sfortunatamente non ci sono, capito? Non ci sono, né quello a destra né quello a sinistra. Però cacchio, uscendo dal cancelletto erano i suicidi con tutta questa roba. Se trovi un amplificatore che pesa 20 kg, io l'ho avuto. Caspita, quindi hanno portato via tutto, non li hanno lasciato, ha detto, un baracchino per modulare, tutta, portati di tutto ci hanno portato via, tutto, ma come si stanno portando pure l'antenna? Secondo me è cosa mirata, perché sapevano che non c'era nessuno vicini, sapevano gli orari di Sandro, che lui è sempre fuori, esce la mattina, rientra la sera, la moglie che lavora tutta la mattina, secondo me è una cosa calcolata, programmata, giù. Avranno usato un furgone. Accidente, si tentano, vanno giorni, si confondono, e dicono, io la notte conosco da, un attimo conosco appena la mia, sono dalle 4, sto uscendo, se non la vedo che firma vicino a me, vicino a te, nel continente, io prima prendo un taglio, poi vediamo, quindi ho capito, prendo un taglio, poi lo troviamo sulla foto, come la situazione, quindi non sto facendo una mattina, la facendo, tu qua ci fai qua, la pistola, e io sto facendo un giro, dove sei là? Perché cupo, marino? Se così bisogna armarci, acciaffarli e criballi in terra, morti, spararli subito in testa senza sparare in alto, spararli subito in testa, voi vedi, abbattine uno per educare da 100. Ciao Marco, devo mangiare il canno, secondo arrivo subito, microfono per Giulio, vai Giulio. Ok, sì, la soluzione sarebbe quella, in effetti la soluzione sarebbe quella, solo che poi si passa la parte del torto e poi bisogna anche che i tempi coincidano, perché se no è inutile, se non ci sei a casa chi spari? Il problema è quello, porca miseria, non è possibile. Sì, loro usano un sistema ormai, ma sicuramente più di una persona, se hanno fatto piazza pulita di tutto, sicuramente più di una persona. Sai, oggi si attrezzano, si mettono con le radioline, col telefonino, uno da una parte all'altra e controllano per dire le due strade, da dove può arrivare il padrone. Se vedono che la cosa sta funzionando male, si chiamano, fanno segnale e loro scappano. È anche difficile trovarli, non è semplice. Se tanto loro si sono appostati chissà per quanti giorni, hanno studiato le abitudini di Sandro ed ecco poi hanno agito in tranquillità, perché giustamente erano sicuri del comportamento della famiglia di Sandro. Scappa proprio dai ciabitaldi a ciappendere, non c'è niente da fare, siamo in un periodo proprio critico veramente. Avanti, vai. Una cosa, ammazzare, una bella pensata sulla terra, a me una sensazione che ho detto, no, come si diceva, ma io non mi sbatto nulla proprio, guarda, tu la vedo che ho non mi fai nulla proprio, se io non mi terra, come vedi da voi, dopo come si diceva, succede proprio, io che non mi sbatto, non mi preso, a fianco a me, leggermente più giù, i lavoratori lavorando facevano una ricinta e noi sono andati da dietro, non hanno preso nulla, tutta loro la cosa via, avanti a giù. Quello che mi chiedo io è come hanno, cioè io lo so benissimo dove abita Sandro, lo so benissimo, e lì ci passa il mondo a tutte le ore, mi nomina giù magico curi a guardare il imbecille. Cosa hai detto Maria? Prova a allontanare un pochino il microfono dalla bocca, Maria, allontanatelo il microfono, una trentina di centimetri, vediamo un po' se scalisce la modulazione. Come adesso? Prova di nuovo. Natalino, cosa hai detto? Sandrino. Ah, Sandrino, a Porto Torre si abita, vabbè, zona Barai, in quella zona lì, un ultimo posto. posto bellissimo. Purtroppo è stato sfortunato che si è trovato la casa a soquadro, messa a soquadro da questi delinquenti, ragazzi. Speriamo che vi ripeschino subito. Ma poi non si sa, magari avrà fatto la denuncia anche, speriamo bene. Avanti Marco! Ma c'era anche i carabinieri con la scientifica, sono venuti da Sassari. Ci sono un bel impronte digitali, quindi spero di riprendere immediatamente, capito? Giusto se stanno ascoltando questi miserabili, avete le ore contate, bastardi. Attenzione, state molto attenti, perché se vi offrono baracchini modificati, baracchini d'alto livello, tipo quello che hai tu, 7009, il coso, tipo Magnum, come si chiama, quel Megaforce, Galaxy Shuttle, soprattutto il 440, un sacco di baracchini, microfoni, MC60, MC85, capito, Turner, eccetera, non li prendete perché c'è la denuncia per ricettazione, occhio, state molto molto attenti. Ok, quando sono andato, sono andati, a corpo sicuro sapevano quello che avevano, l'hanno intintato, uia. Carità, brutti, rongati, non sono altri. Ok, Claudio, io voglio rispettare la vostra gente. Scusate, mi prendi giù. Ok, Mari. Certamente, sicuramente sono andato a colpo sicuro, perché loro prima si appostano per giorni e giorni e controllano tutto l'andazzo, come funziona, e poi si organizzano. Maledetti, che vi venga un accidente, vi venga a tutti questi ladri del mondo, non solamente questi di qua, del mondo intero. Se ne fanno poco di danno, già ne mettono poco di persone in crisi, proprio per le sue abitudini da delinquenti. No, non è possibile. Qua. Ma poc'anzi c'era anche Marco, ci sì, lo stai mangiando? Non riprende, si vede che non... perché si è affacciato un attimo, poc'anzi, ma poi non si risente. Avanti qua. Ok, dai. Va bene, chiuso il discorso. Comunque, state attenti, se vi offro un baracchini, vedete un po'. Fatemi sapere, oppure chiama Cassandro. Perché, minchia, un sacco di roba, c'è da peccato veramente. Uia, vabbè, è quello giù, il corso di abitare così, bassi a schiera o, capito, campagna. Io dovrò fare una camera blindata. Vabbè, la lavaggia sopra ancora in occhi. Non sarà facile entrare da te, non è facile di sicuro, è diverso, perché intanto c'hai il bottone blindato, dunque è già diverso il discorso. Lui con quelle vetrate, sai, quando vedono delle vetrate così, sono bellissime, molto molto belle, molto eleganti, però sono invitanti anche a certi personaggi, capito? E si sa, il delinquente capita lì, prende subito la palla al balzo. Adesso sicuramente gli hanno fatto danno anche nella vetrata, e sicuramente l'avranno rotto il vetro, e dunque altre spese anche. E tutto si aggiunge poi, purtroppo è così, ma speriamo bene, speriamo che si risolva questa situazione. Le prendi? Ho fatto anche sfondamento, io ci sono stato da Sandro, e quindi so perfettamente com'è la casa e tutto. Quindi però c'è questo vetro di sfondamento, e poi ci sono quelli scorrevoli, lo scorrevole era aperto per entrare la luce, aperto al sole, ma secondo me non è intervenuta e facciamo un vetro di sfondamento. Ma anche il vetro di sfondamento già si rompe lo stesso, non è che lo si rompe, non lo dico anti sfondamento, però guarda, il vetro anti sfondamento basta una candela di macchina, di moto, tu gli tiri quella e si spacca il vetro, guarda, diventa tutto zigrinata come se niente fosse. non credere, perché anche fondamento praticamente sono due vetri, uno sull'altro incollato con una sottilissima pellicola, si rompe però non cade, però si dai due colpi, poi fai il buco, ecco com'è il discorso qua. L'ante fondamento sì, una certa sicurezza c'è, ma non è proprio una sicurezza totale, ecco qual è il problema. Ah, ecco, infatti, non sapevo, io pensavo fosse proprio la parola esatta per non che non si sfondasse. Invece ho detto, hanno fatto un taglio proprio, capito? Sono passati da lì. E poi sono usciti dalla porta, chiaramente, è normale, no? Sono usciti dalla porta. A razza di cose micidiale proprio. Vabbè, comunque, stiamo attenti se nel caso sentiamo qualcosa. Fatemelo sapere a me, ho fatto sapere a Sandro, se poi qualcuno vuole il numero lo passo. Occhio, stiamo attenti, se c'è qualcuno che offre, vende queste cose, chi è questo? Ma sì. Non saranno mica così pazzi da venderla a Sassari, no? Quella roba la venderanno fuori, o anche giù, a sud dell'isola, non credo proprio a Sassari, non saranno così scemi, no? Beh, non saranno scemi, ma comunque anche venendo fuori, già Sandro è stupido, è un ex carabiniere, quindi già sa come si deve muovere, ha un sacco di conoscenze, quindi manderà le denunce caserma per caserma. Vedi che già metto gli piedi. Vai giù che leggo questo messaggio un secondo. Ok. Beh, certo, ma probabilmente saranno sicuramente dei rumeni, Marco, perché tanto se sono quelli, già lo sai, quelli non hanno paura di niente, lo hanno. Dunque magari poi si spostano in altre città e diciamo che la smerciano lì, la roba che hanno rubato. Non credo che un ladro si metta a vendere qua nel circondario di Sassari o di Porto Torres, non credo assolutamente. Già lo sanno loro come fare questi delinquenti, che discendono un accidente, che non si svegliano ad indomani, se basta arrivare. Avanti Marco. Povero Sandro, immagina, tornato a casa tutto sparito, mamma mia. Dopo tutto quello che fa lui, anche apparati grandi, non avrei voluto essere sui panni, guarda. Riprende Marino, io sono qua, Gianni è uscito. Eia, sono in giro già, un attimino Marco, arrivo subito, qua sono le stesse case tua, ti avviso. Sei già a fondo scala, figurati. Ma sono sempre vicino a casa. Caspita, vai Marino. No, Marino si è allontanato, dovrebbe poi riprendere più tardi, magari, non lo so. Senti te la situazione, Gianni, hai ascoltato di quello che stavamo parlando? Ma c'è, cioè, in questo momento, perché mi sono fermato un attimino a prendere della lancia e quindi ho intrapreso che hanno rubato qualche cosa, ma non ho capito cosa. E sono entrati in radio a casa di Sandro, gli hanno smaligiato la casa, portato via le tutte per radio e sicuramente anche altri oggetti, tutto lì. Ma le radio, quelle lì... Non penso che abbiano molta facilità, almeno che siano su commissione, a venderle, capito? Non di certo, non credo che sono ladri, sì, ma non talmente stupidi da vendere qua, in questa zona. Sicuramente poi li portano fuori e se li vendono fuori, senz'altro. Specialmente se sono gli zingari o i rumeni, che lo sa. Ma speriamo bene, speriamo che riesca a smettere di intrecciare, di trovare tutto, così almeno... e che questi delinquenti vengano ammalettati così e tenuti in carcere a vita, per carità. Ma avanti Marco. Ok Natali, sentite, stavamo parlando, hai sentito Natali? Sì, purtroppo quando quando si incappa in queste cose qua, sono cose molto molto piacevoli, ma anche se non ti portano via niente, sono fatto di sapere che sono entrati di estranei in casa, quello è già molto ma molto molto fastidioso, purtroppo è così. Avanti Marco. Guarda, se entrano i ladri qua, vedono la baraonda e dicono, ma qua sono stati già i ladri e se ne vanno. Esagerato. Quando mai? Cosa fai tu? Perché tu metti le cose tue sul quadro così, per il gusto di mettere in disordine. Sono rientrato? No, apposta no, ma fidati, se vengono qua dicono, ma qua i ladri sono già stati. Vai Claudio. No, qua non c'è neanche baraonda, qua c'è ordine, e buh, però si entra in via Benigliariana, arriva un po' di domani, mi è stata all'improvviso mia figlia, mi è arrivata mia figlia, e poi riesce nuovamente, perché alle 8 deve riandare al lavoro, quando sono sistemata, come ha sentito la porta aprire, è partito, dice nato, poi si è accorto che era lì, poco male, vero? Ma ammazzami, però è difficile che entrino, perché con un cane del genere non ve la fate ne entra bene. E vabbè, comunque, è così, va bene, va male, altro che male so. Ma passate un baracchino, nulla, non l'hanno lasciato, manco venire uno è fasciato, ci stanno portato uno liscio addossato, tutto, microfoni, c'aveva 5-6 microfoni, tutti portati via, tutti. Tutta, portate lì, tutto, mi hanno portato via tutto, vabbè era già successo a qualcuno alla veloce, no? Non voglio fare nomi, capito? Però lì ce n'era una di radio e si è buttata, invece qua ce ne sono parecchie, ce n'erano parecchie, purtroppo, vabbè. Speriamo ben passando, è canto capire comunque, c'è una carabiniera scientifica, hanno fatto i rilievi, perciò adesso vediamo cosa ne tolgono fuori. Va bene, a chi tocca, avanti. Io mangiavo la radio, gli hanno preso anche altra roba. No, hanno rovesciato tutto a casa, cercando nei cassetti, negli armadi, cercando sicuramente soldi, oro, eccetera, però hanno visto questa roba, diciamo che per valore, io potremmo di tutto. Poi si vedrà, da qualche parte la prenderemo, gli hanno portato via tutto quello che aveva lì nella sua stanzetta dove c'è la radio, capito? Se li mettono sui bimbi, vedrai. C'è la roba rubata che mettono sui bimbi, infatti non fa manco affidarsi a comprare. E lo sai che ho sentito questo ragazzo che ha comprato dei telefonini nuovi a meno prezzo, ne ha comprato 5 e poi è andata la finanza a casa sua a cercarlo. Stati attenti, non comprate radio usate su eBay, perché ti sto dicendo a me che Sandro si sa muovere bene, proprio che si sa muovere bene, è a fine in galera per ricettazione, siamo attenti, dico stiamo attenti. Occhio alla penna, state attenti anche appunto se vedete roba di quel genere lì, il Saturn Echo, il Megaforce, c'è un 7000, cos'è, un 7009 modificato, ci sono radio modificate Colt, capito, c'è un 440, c'è l'Excalibur, ci sono un sacco di portati, un sacco di roba, quindi state attenti, se vedete qualcosa di anomalo, chi ha il numero chiami a Sandro, se no chiamate a me e lo avviso io, capito? Perché sicuramente lui avvisa anche la postale, ma quanto mi ha detto, sta facendo un maremoto, ha detto devo recuperare tutto, ma gli amplificatori, c'erano due amplificatori enormi, dove mi hanno fatto a portarli fuori, quindi chi avvisa la postale anche su eBay controllano adesso, perciò. Di notte è successo oppure di giorno? Guarda Sandro, noi ci sentiamo quasi tutte le mattine, la verità, accompagna la moglie al lavoro intorno alle 7:30-8, ok, e poi lui va, perché sapete tutti che Sandro è sempre in giro per lavoro, poi lui va a farsi il suo lavoro, quindi da quell'ora lì la casa è vuota e la moglie rientra prima, perché rientra alle 2, e alle 2 ha trovato la mala sorpresa, lui era fuori, l'ha chiamato e è rientrato. Cazzarone, tutto colpo. segnato tutti i numeri di serie, anche se poi i numeri di serie le possono cancellare. È un casino, eh. Che amplificatori erano, Claudio? Ma grossi, proprio grossi. Quanti ne arrivo? Marco, scendi, io che sto arrivando. Sì, mi metto la parrucca e scendo. Ciao, Giulio, riprendi, ciao a tutti. Il rossetto! Non ti dimenticare il rossetto, giusto, con Gianni. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Vabbè, dai. Vediamo un po'. Nathalie, aiuto, canta! Cosa? Io ho un amico vegetariano e può spostare dove vuole, anche da una casa all'altra, perché sono wifi, mi pare, cose del genere. Cioè, comunque funzionano col telefonino. Io ho la telecamera, è Filippo la telecamera mia, mentre la vegana dice quella pittura. Piacevole, purtroppo, perché incappa in queste sfortune qua, sono cose molto ma molto piacevoli. E poi Sandro non se lo meritava proprio, guarda, perché è una persona come cinese, una persona seria, una persona che ha lavorato una vita e che sta continuando a lavorare, e trovarsi la casa così a suo quadro e svuotata da questi delinquenti, indubbiamente è un colpo, è un colpo grande, grande, grande, grande. Anche perché poi non ti fa stare tranquillo per il proseguo dei giorni e degli anni, per cui speriamo bene. Avanti, Natalia. C'è qualcuno che conosce verso i movimenti? Ebbene, sai che ci apportano già, ci apportano questi delinquenti e studiano per giorni, studiano tutte le abitudini della gente per poter lavorare poi con la massima tranquillità. Ecco qual è il discorso, Gianni. Ma a volte sono anche persone che ti conoscono, a me una volta quelli che prima erano amici miei hanno fatto una specie di tranello, ero affacciato alla finestra e mi ha detto, beh, cosa stai facendo già? E io gli ho detto, così mi sto prendendo un po' d'aria. Dice, salgo, sali! Questo amico mio, questo che era amico mio, sale a casa. Deve essere che quando è salito ha lasciato la porta socchiusa ed è entrato l'altro, lui mi tratteneva a me e l'altro praticamente frugava a casa di mamma questo. E praticamente poi ha detto, beh vabbè già ci sentiamo, io mi sono affacciato alla finestra e li ho visti tutti e due insieme uscire. Vado in camera da letto, ho trovato tutti i casetti frugati e cose, allora sono andato, li ho cercati, ho cercato un paio di amici, li abbiamo acciappati, tutto l'oro di mia sorella si avevano rubato, anelli, tutto quanto, erano diventati da frattempo tussici, io non lo sapevo, capito? Ci hanno rubato tutto l'oro di mia sorella, però l'ho recuperato, tranne un orecchino che non sono riusciti a trovarlo. E si hanno imbigliato anche un bel due giaffa a bocca, tutti e due, capito? Uno da un amico mio e uno da me. Per dirti, non c'è mai la fidarsi di nessuno, tu li conosci in un modo, le persone poi cambiano e si è fottito. Sì, ma queste sì, queste cose già ormai sono risapute, già lo so, sì, purtroppo. E oggi poi con il discorso telefonino, sai, uno si apposta, anche se abiti in un palazzo, cosa fanno? Poi vanno studiati i movimenti della gente, no? Uno rimane fuori, giù, nel bottone e controlla le eventuale arrivo di qualche familiare, per anche vedere qualcosa che non quadra molto, lo chiamo, lo fanno squillare, quando esce e scende tranquillamente alle scale. E perché? Come fai tu a dire che ero per dire a casa tua? No, hai capito come funziona? Lavorano sempre in coppia adesso, proprio perché conviene a loro per essere più tranquilli, in modo che non vengano scoperti. Cioè, indubbiamente sono, ripeto, sfortune, sono sfortune della vita perché ci capita in queste situazioni. Avanti, ho Natalino. Avviso, però anche il cane, si sa, alle volte ci perde anche il cane, perché te lo possono ammazzare, come hai detto Bocca anche tu, diventando qualcosa da mangiare, sai, l'animale quando vede qualcosa si butta a farsi il pasto, la mangiata, e dunque il cane già può essere una cosa buona, ma fino a un certo punto, purtroppo è così, ma comunque. Avanti Marco, sei ancora lì oppure stai scendendo? Sei sceso? No, è uscito con Gianni, con Gianni. Sì, certo, beh, il cane in appartamento è così come sono io, un po' più difficile, capito? Ma quando sei isolato, così isolato, Dio, non sei isolato. Però si rabbetta, se non si... si rallentano, ma vabbè, comunque, già sa quello che deve fare, mi dispiace tantissimo, però è un bello casino, almeno la poco di roba anche lì, adesso ho fatto i venti, vabbè, ok, ma Eugenio non c'è più? No, io Eugenio non l'ho più sentito, era lui a giro col furgone, a un certo punto non si sentiva più, vabbè, comunque. Babu, cosa vuoi che ti dica qua? La situazione purtroppo alle volte è proprio veramente spiacevole. Gianni? Ha detto Marco, non si vede qua, si è perso scendendo dal palazzo. Allucinante. Qua è tutto pieno di telecamere, sui pali della luce è tutto quanto pieno di telecamere. Casa invece è quello che bisogna dire in questi abiti, invece il marmista, roba del genere. Tutto pieno di telecamere. Telecamere ce ne vorrebbe uno ogni 20 metri, aspetta, sarebbe una cosa molto importante. Così almeno uno, anche se si maschera e si trucca in qualche maniera con abiti, eccetera, però si può ripercorrere sempre tutti i movimenti di quelle persone. Sarebbe una cosa favolosa, guarda, se ci fossero tantissime telecamere, al massimo uno 50 metri l'uno all'altra, in modo che uno possa proprio ripercorrere tutto il percorso di certi individui indegni di vivere, per carità, che epocalia, non è possibile. Riprendi qua. Lo so, quello è il sistema di telecamere, ci vuole. Lui non ci ha pensato, c'ha dei posti ben nascosti dove poteva metterla, purtroppo c'è così in basso, di dente, andando da Havana, maledetti, mi dispiace un bel, adesso piano piano si dovrà riprendere tutto, via qua noi, vabbè. Anche gli uomini a volte diventano degli attacchi per delle cose per poter istigare la gente a fare cose brutte. Anche gli uomini si stanno attaccando adesso. Vabbè. Dove sei già? Gianni! Sì, dai! Stiamo partendo in questo momento, dai, siamo via Nizza. Via Nizza, adesso che è qua, hai sentito, adesso che è via Nizza. Vabbè, avanti Natali. Sì, ci vogliono, solo che non so fino a che punto uno possa piazzarle, perché avevo sentito dire tempo addietro che praticamente si tratta di infrangere la privacy della gente, hai detto, se io qua mi voglio mettere la telecamera per dire, no? Siccome vicino abitano anche delle persone, dunque secondo certe leggi infrangi le regole, praticamente disturbi la privacy della gente, perché vedi, vedi che entra, chi entra, che esce, capito? Tutte queste cose qua, Natale. Ma se li metti dentro casa, se ne accorgono, se si buttano i burghissi, si portano via anche quello. Oh, yeah. E io dico che ci vorrebbero messi dalle leggi, fate installare in tutte le strade di tutta la città, messe uno a ogni 50 metri, per poter, in modo da poter ripercorrere tutti i movimenti di qualsiasi persona, dei brutti e dei buoni, per cui sarebbe una cosa favolosa. Vabbè, riprendi. Una cosa importante, perché è già un grande vantaggio. Vabbè, comunque saremo a vedere, dai. Speriamo bene che non succedano più queste cose. Ui, è ben di male, siamo finiti, non è possibile, non si può stare tranquilli nemmeno a casa adesso più, purtroppo è così. Vediamo se ne prende Claudio, forse dal telefono. No, sono qua, stavo leggendo messaggi che mi stavano mandando a destra e a sinistra. Ho mandato un po' di foto del materiale, appunto, io ho tutto quello che ha lasciato, ho mandato un po' di foto, perché anche i vari mantori. Allucinante, è una cosa pazzesca. Uno anda a travagliare, dove è la travagliata della valigia, beh, sono cose brutte. Vabbè, sì, Antalini, vabbè, ci siamo i buoni, attacchiamo a rubare l'antenna, mi manda la camera, facettiamo il cavo assieme a quello che discende, se entriamo a Trento, non è un problema. Ma l'ho chiamato, scusate, dai, devo scendere giù, ma l'ho chiamato, vi saluto al momento, dai, non so se posso risalire, ci sentiamo perché è venuta gente. Ciao, grazie per la chiacchierata, ciao Natali, alle prossime, dai, scendo urgentemente che mi hanno chiamato già per la seconda volta. Ciao! Ciao Giulio. Lei aspetta che sta parlando Natalino e non capisco niente. Sì, allora, già, il primo giorno è un baro, il baro dell'antenna, capito? Scettiamo il cavo di alimentazione, si è alimentata o cos'è, lo facciamo entrare dentro casa assieme a quello dell'antenna, no? Non si avvisa né manco. Tu la orienti, capito? Sì, la orienta dove ci sono quelle signori da prendere, la orienta sul cavo. Già, niente, cos'è? Organizza, se vogliamo bruciare, non è problema, capito? Una gemma e la fette le metti dentro. Esatto, una puntata proprio sopra la radio. Già vabbè. Ok, già ci vediamo domani e vediamo cose che dobbiamo fare. Eugenio, cosa stavi dicendo? Stavo parlando a Natalino, non ti ho sentito. Dimmi. E perché? Cosa ti è successo a te? Non ho capito, tua madre? Hanno ricoverato tua madre? Non so, di pressione, può essere un'ottava in ansia. L'importante è non abbia avuto infarto o qualcosa del genere, ma un svenimento così può essere anche un calo di pressione. Grande di età. 70. E stessa mamma anche oggi. L'età, sai, un calo di pressione, una cosa, non va nei riflessi oltre. Quindi non ti preoccupare, se non gli hanno provato niente, stai tranquillo. Non è niente di grave, se l'hanno già dimessa, però è chiaro che bisogna fare più accertamenti, capito? Ma adesso già lo prendo la vista a pagamento, che rimango più tranquillo, anche io vedo il pronto soccorso, non mi vivo. No, porta dal cardiologo, fare una visita più dettagliata e così si è più tranquillo, capito? Pronto soccorso è fatto da gatto, capito? Non vedere l'ora mai di Bugattini. Quello che è vero, caro. Quello? Va bene, io sono arrivato qua, ci sentiamo, ma io riprendo a casa, ciao! Ciao OG, dai, stai sereno, fammi sapere. Ciao Antonio, buonasera. Avanti, c'è Natalino, io, Giulio e la Corriere l'hanno chiamato, c'era Marino, mi pare che sia in 4X, che stava facendo cosa, c'è Gianni con Marco in macchina. Vedi te, fai te oppure fai la camomilla. Oppure impiccati Antonello. Grazie Marco. Dove sei? Saluto a tutti comunque. Siamo sotto casa di Gianni, dai, sto andando a prendere il cane così gli fa fare un giro. Va bene, meglio così, sono contento. C'è qualcuno sotto il Marco che non capito niente, cosa ha detto? Avanti. Ecco, ciao, buonasera. Ciao Eugenio, buonasera, ben sentito. Sì. Ben ascoltato. Sono arrivato a casa, ciao a tutti, ciao! Sì, ciao oggi, saluto neanche a te, ben sentito. Grazie, avevo telefonato qualcosa, ma qua stasera. Da Tisimo non voglio portare domani mia stasera, aiuta a messa la macca all'autovezza. Ho detto, guarda che io ci ho solamente il letto, gli infermieri hanno detto, io ho cambiato il cattetere, gli ho detto, secondo lei, con la pizza glielo tolgo. Cioè, ma chi sei? Cioè, la storia del tuo fratello sta diventando una tragedia, certo? Io non riesco a comprendere. Sì, chi si va nello Zaibedo, Rugabo, attaccato a Rugodo, non lo so. Come ci rimette una persona così? È chiaro, ci vuole un'infermiera. E chi lo cambia il cattetere, chi lo gira, chi lo fa? Non ve ne prendete di quelle responsabilità, no, Antonio? Non ve ne prendete. Quelli sono scemi, sono, allora li mando a fanculo, li chiesi domani. Però con la patata domani mattina, ma che sono macchi, sono. Se sono arrivato a letto, cosa faccio? Faccio le infermiere, se non so neanche come togliere le cattette, io. No. Lei aspetta fino a venerdì prossimo, se no se la trova in culo. Però poi se non c'è mai col letto, c'è il letto apposta. C'è il letto apposta, che sollevi, che il disomacchio, sono esauriti anche a me, ma sono veramente pazzi. Sì, lo sai che c'hanno le convenzioni con le... lo sai, no? Quindi non vedo l'ora di... c'è la pensione, quindi vai in istituto in pratica, ti dico, un cosa, con 254 euro al mese. Il discorso è quello lì, per colpa loro mi ha fatto in queste condizioni, che gli hanno fatto un accompagnamento e che hanno fatto una truffa. Adesso sono in causa e mi danno tutti i soldi indietro. Sono quasi 7.000 euro, mi hanno fregato. Allucinante. Un'odissea è diventata questa cosa che dovrà detto. Un'odissea, per carità di Dio. Gianni, riprendi. Ancora non è tornato, Sta scendendo con il cane, facciamo un giretto via limitrofe, dai, così fa un po' di correre il cane. Sì, ma tu dove sei? In macchina? Sì, sono in macchina, andato a pigliare il cane, dai. Perché non c'è eco, non c'è niente, Non lo so, forse era già arrivato. Il lineare l'ho spento perché la macchina è ferma. E io voglio accendere Santiago 9, qua non c'è problema. Va bene Marco, va bene. Riprendi Natalie che va bene. Natalie! Ehi, mangia allora, mangia. Aspetta un secondo, Antonio, va bene. Pomponio? Attenzione Pomponio! fatta, gli ho detto Sandro, Sandro ci mette un bel poco, un bel di amicizia e conoscenza. I ficcati dentro un furgone con tutta la refurtiva mista tra le facciasse di questura. Cosa? Li hanno trovati? Inficcati, mi ha chiamato Sandro, adesso sta facendo la stessa ricostruzione. Ma non avevo dubbi. Non avevo dubbi, capito? Non avevo dubbi. Conosci un bel di gente, Sandro. Un bel. Ciao, Giuseppe, Massimiliano. Inficcati, mi sta salendo in questura. Capito? Furgone. Sospetto con tutte le furtive dentro. E dove li hanno presi? No, mi ha detto niente. Ha detto mi chiama dopo, poi ne parliamo di persona. Era al telefono con lui adesso. Come? Ero al telefono con lui adesso. Sì, adesso mi ha chiamato a me. Sto salendo a Sassa. Meno male, almeno si recuperano tutta la roba. E ma vedi in faccia Gisiba, i suoi chivi. Quello è il male. Ma sono di Sassari, hai visto? Sono di Sassari. Cavola. Ehi, va bene, dai, sono contento. Sono contento che abbiamo preso questi malandrini. Ehi, qui, lasciami questo, che si porto a Filippo, molto bene. Sono contento che... Dopo il Filippo, usando, visto? Per conoscenza che c'ha, ma forse un poco agatta tutto, anda a pigliarli. Ma beh, là, cosa è successo? Spesso al telefono. Può cuovere. Che è successo una taglia a Sandro? Tutto in radio. Rumini scommetto, no? Ah, hai trovato tutto allora, Gesù, ma porca puttana, ma come si può? Scusa, come ha fatto a trovare tutto? Ha trovato le persone rubando dentro? Scusa, siamo sovramodulati, cosa hai detto Natali? Scusa, pazza. Non ti fidi, no, non ti fidi. La gente ci fa il culo per farsi una station. Anni e anni e anni, poi uno stupido, in 2 secondi ti rimasti tutto. Guarda, io sono d'accordo a spararlo, sono d'accordissimo, spararlo, poi o muori o no, ragazzi da futti. Girati, buon entrare, furare, ammazzare a te, lì sono andato, va bene. Via, che gente di merda qua, gente di merda veramente, però vabbè, ripeto, se entra a casa va così, già la trovo la uguale, già c'è, però, se sembra di che non puoi in salita. Via, già, per carità, ma se l'hai cambiato la porta Natalia. Vabbè, poi tu hai quello che hai, devi blindare. Mi dispiace per Sandro. Vabbè, interessante che abbia trovato tutto. Poi bisogna vedere se abbiamo fatto casino, se abbiamo rotto qualcosa, se abbiamo rubato soldi. Non ti svino. Claro, tu lo stesso, stai attento. E allora, ti avevo visto. Bene, diamolo massiccio, piccolo però massiccio. Metti grido. Secondo te, aspetta, allora. Questo sta, questo ufficio sta navigando con l'Appennina, perché l'ho spostato, ho messo l'Appennina wifi, no? Non è col cavo Ethernet. Apri la pagina di internet e ci mette, aspetta. 1, 2, 2 secondi, va bene. Aspetta, non l'Appennina, io ho la linea fissa, c'ho la infostrada come linea, però è agganciato con la wifi, questa è l'Appennina che mi aveva regalato Maurizio. E per aprire la pagina, penso che sia anche buono con 2 secondi con questa Appennina. 8 mega ciò. A me non mi va bene Natalino, non devo andare in sendino, ma andare troppo bene. Non c'è nessuno agganciato, mi va benissimo, guarda. Devo usare il modem. E ora andiamo bene, stiamo sistemando tutto. Ma comunque andiamo bene la vostra computer, non voglio. E poi è nuovo. troppo, eh. Ho preso la seconda mano, l'abbiamo tutto sistemato, eh. E va benissimo, dai, lo uso la battaglia. Va bene anche per la volo, comunque, dai. C'ho portatile. A voglia, già. Già non mi manca, non mi manca. Non mi manca, diciamo, internet. Lasciamo il microfono, aspetta un attimo. Comunque mi ascolti? Fate un attimo, ma io mi sono dovuto allontanare. Scendo a vado a portare il cane e ci sentiamo dopo, ok? Natali, mi hai sentito? Pronto? C'è nessuno? Natali, ti ho chiamato, sto andando a portare il cane, ok? E io d'accordo. Ciao. Claudio, Andrea, Natali, Giamma di Garo.